Episodio 6. 2021. Ascolta l'intervista. Allora, Emanuel, tu frequenti la scuola elementare. Ti volevo chiedere, nella tua scuola hai mai incontrato dei bambini che sono dei bulli? Sì. E secondo me... Come si riconosce un bullo? Cosa fa un bullo? Il bullo è un bambino che si sente che non viene molto ascoltato dagli altri, o si sente, insomma, vuole far vedere agli altri che lui ha qualcosa in più e vuole dimostrare di essere più forte e un po' più tutto. E allora in questa cosa che lui vuole dimostrare agli altri inizia ad avere, ad assumere, l'atteggiamento un po' di un bullo. Allora, bullo significa un bambino o una persona qualsiasi che possono partire da semplici cose tipo dire o rubare delle penne, fare delle cose del genere, anche da dire delle bugie, per esempio, insomma, per far vedere che loro sono più grandi degli altri, fino a partire a fare delle cose non tanto belle. I bulli, i bambini, fanno sempre vedere che sono più forti e per questo gli altri bambini delle classi dove si trova un bullo hanno quasi sempre paura di lui e quindi non possono reagire. Allora, se si vuole che il bullo non sia più bullo o che non si senta più così tanto forte, Che si può fare? Non ci vuole uno ancora più bullo, perché là è vero che smetterebbe, ma ce n'è un altro. O ci si mette tutti contro di lui e si deve farglielo capire che questo atteggiamento non è l'atteggiamento corretto, o si deve, possiamo dire, isolarlo e che nessuno gli dia ascolto, e se si avvicina a te di allontanarti da lui. Perfetto, quindi questa è la soluzione. Ti è mai capitato di assistere, di vedere un episodio di bullismo? Sì, anche su di me e su compagni. Per esempio? Per esempio, a un bambino della nostra classe è stato costretto a un mio amico di andare dentro la classe dicendo alla maestra una bugia, cioè di andare al bagno e andare a rubare delle carte dalla borsa di un mio amico. Ah, ma questo mi sembra bello grave. E poi chi se n'è accorto? E alla fine questo bambino non l'ha fatto. Però, insomma, l'abbiamo scoperto, lui l'ha detto a me, l'abbiamo detto al bambino che aveva le carte e si è arrabbiato con questo bullo e, insomma, alla fine la maestra non ha dato la colpa a nessuno perché non sapeva proprio la storia vera. Ecco, i bulli, la maggior parte delle volte, riescono sempre un po' a rigirare i fatti.